solitudine è un peccato per tutti quelli come me, che nella vita hanno perduto un grande amore dentro sé. Quando quel giorno mi hai lasciato, salendo in macchina con lei, hai detto addio alla mia allegria. In questa vita sto toccando il fondo, dimmi dove sei. Adesso cerco, adesso inseguo te nei giorni miei. Mi manchi come mai. Sento il telefono suonare, penso ogni volta che sei tu. Cerco qualcosa da mangiare, ma proprio niente mi va giù. Quando l'amore ti fa male, non puoi resistere di più. Ma come me c'è una tribù di gente che alla fine non si arrende.